È bello che voi andiate a messa non solo la domenica, ma anche un giorno feriale, perché uscire di casa, decidersi, vestirsi, venire in chiesa per tempo, ascoltare la parola di Dio, esserne arricchiti, credo che sia il modo fondamentale per crescere nella fede. E tuttavia, insieme a questo, ce n'è un altro, ed è quello di colui che prende in mano la Bibbia, magari le letture del giorno con il messalino che potete avere, e le legge da solo, da sola, le approfondisce, le gusta, le mangia. I padri della Chiesa dicevano le rumina. Per esempio, se ciascuno di noi fosse capace di gustare questo salmo responsoriale, il salmo 26-27. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Ecco, se uno fosse capace, per conto suo, magari davanti alla presenza del tabernacolo, di meditare, di gustare, vi assicuro che troverebbe un conforto grandissimo. Quando io leggo questo salmo mi ricordo sempre di un fatto che mi è capitato quasi 40 anni fa, dunque non è di oggi, eppure certe cose ti si stampano nella mente. Io ero in vacanza con i ragazzi della mia parrocchia, da noi si usava andare in vacanza in campeggio, no? Con le tende. Ero in montagna, mi raggiunge una notizia pesantissima di una persona che si trovava in una certa situazione di grande, grande, grande, grande pericolo. Poteva accadere di tutto e io non potevo fare niente e io ero lontano. Però per me era dolorosissima questa notizia. Allora, in ogni campeggio nostro c'è sempre una tenda cappella in cui si conserva nel tabernacolo dove si celebra la messa e poi si conserva il Santissimo Sacramento. Allora lasciai tutti e andai lì davanti al Signore e ci rimasi non so quanto tempo, penso mezz'ora, un'ora, non so. Pensavo a quella persona. Alzavo gli occhi al tabernacolo e dicevo, però tu Signore sei la mia luce, la mia salvezza, non devo aver paura, tu sei la difesa della mia vita, che timore ho se sono nelle tue mani. Però poi il pensiero ritornava lì e mi immaginavo con la fantasia quello che poteva succedere. E poi alzavo gli occhi e il cuore al tabernacolo. Ecco, rimasi con la testa fra le mani o con gli occhi fissi al tabernacolo per un tempo molto molto lungo. E quella era il mio rifugio. Quella era il mio conforto. Non che pensassi che andasse bene, non essere ottimista, non essere pessimista, non rifugiarmi nel Signore, proprio la parola giusta è questa, rifugiarsi nel Signore. Cari cristiani, io lo auguro anche a voi, vi auguro di rifugiarvi nel Signore, nella Sua parola e nella Sua presenza nel tabernacolo. Beati noi, se sappiamo scoprire questi due rifugi. La situazione poi si volse al meglio, ma non sempre la vita è così. Quando capitasse che avete una persona in gravissime condizioni di salute e sapete che a meno di un miracolo, che sì, avvengono, però no, non tutti, tutti, tutti i momenti, e questa persona tu la perderai, il Signore è mia luce e mia salvezza. Ma di che cosa ho paura? Qualsiasi cosa capiti, il Signore è difesa della mia vita, di di chi avrò timore? E allora con voi, cari fratelli, voglio pregare perché per noi che siamo qui presenti questo avvenga, ma dobbiamo diventare apostoli del Vangelo, della parola di Dio e dell'Eucaristia. Apostoli come? Insomma, anche dicendolo, se si può dire. Io lo sto dicendo, però sono un sacerdote. Forse voi potete dire una vostra testimonianza, potete essere ascoltati, potete anche non essere ascoltati, ma se lo diciamo a Gesù con la preghiera, questo è un modo straordinario per essere apostoli. Signore, diffondi in persone giovani, in persone anziane, perché la sofferenza tocca tutti. Diffondi nel cuore dei tuoi fedeli, giovani, anziani, questa sapienza. Rifugiarsi nel Signore, nella Sua parola e rifugiarsi nel corpo di Cristo presente nel tabernacolo.